Cantine di Franciacorta. Un saluto, siamo tra i borghi storici di Nicoline di Cortefranca e Torbiato d'Adro, l'azienda Solive della famiglia Bariselli, produttrice di Franciacorta ma anche agriturismo e azienda agricola dal 1898. Primo Vinitaly quest'anno, pur producendo vino da 15 anni. Gianmario Bariselli. Noi siamo sul territorio dal 1898 e la nostra azienda nasce come allevatori e produzione di carne. Questa attività che praticamente stiamo portando avanti ancora a tutt'oggi, abbiamo ancora più di un centinaio di capi di bestiame e poi chiaramente con il discorso Franciacorta abbiamo rivisto tutto quello che era un po' la nostra produzione, inteso come produzione di mais e quindi alimentazione per i bovini, e quindi abbiamo trasformato un po' tutti i nostri terreni, quindi oggi abbiamo appunto 30 ettari tutti a vigneto. Alla prossima tappa! Vi aspettiamo al Festival Franciacorta in Cantina il 18 e il 19 settembre 2010.